2024 2024 di Enrico Pagliarini. Questa è la puntata del 6 e 7 agosto 2011. Benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ogni settimana cerchiamo di farvi capire, e anche noi cerchiamo di capire, come la tecnologia sta cambiando la nostra vita. La scorsa settimana abbiamo parlato di sicurezza informatica, dicendo tra le altre cose che questo tema dovrebbe far parte delle priorità di qualsiasi, partirei proprio dagli individui, dalle famiglie, ma soprattutto di qualsiasi azienda e organizzazione, pubblica amministrazione che sia. Ogni mese commentiamo le notizie che riguardano intrusioni, attacchi informatici, e il ritmo di queste notizie è decisamente aumentato nel corso degli ultimi mesi, direi dell'ultimo anno. Bene, questa settimana, a rendere ancora più frizzante e effervescente la situazione, è arrivato un annuncio di McAfee secondo cui negli ultimi 5 anni, sentite, è stato messo in rete un sistema di hacking, potremmo tradurre con un sistema di spionaggio digitale, che ha preso di mira almeno 72 organizzazioni in tutto il mondo, la maggior parte negli Stati Uniti, ma anche in Canada, India, Corea del Sud, Taiwan e Vietnam. Sarebbero stati rubati grandi quantitativi di informazione, e McAfee ha definito questa operazione come il più grande trasferimento di ricchezza in termini di proprietà intellettuale della storia. Secondo la società americana, dietro a questo sistema di spionaggio c'è uno Stato. McAfee non ha fatto nessun nome, ma naturalmente nell'ambiente gli esperti tutti pensano alla Cina, che in questo modo avrebbe messo le mani su informazioni preziose di qualsiasi genere, di intelligence, aziende che fanno armamenti, che sviluppano software, eccetera, eccetera. Naturalmente la Cina ha fermamente smentito e rinviato al mittente queste accuse, ma molti esperti, appunto, sostengono, anche visto il passato e viste altre operazioni, altre esperienze, che appunto dietro a questa maxi operazione ci sia la Cina. McAfee, lo ricordiamo, è uno dei più grandi produttori di soluzioni per la sicurezza, è un'azienda che da alcuni mesi è di proprietà di Intel, e Intel annunciava tra l'altro circa un anno fa, il 19 agosto 2010, l'intenzione di acquisire McAfee. Tra l'altro le due aziende hanno sedi molto vicine l'una dall'altra a Santa Clara in California, in Silicon Valley. E quello annunciato in settimana, mercoledì scorso, sarà sicuramente uno dei temi di discussione alla DEFCON Hacking Conference. Questo nome, DEFCON, si ispira all'acronimo che definisce lo stato di allerta delle forze americane, le forze armate americane, ma a questa conferenza si discute e ci si mette alla prova però sulla guerra digitale e sulle tecniche per penetrare o compromettere i sistemi informatici. La conferenza è in corso mentre parliamo a Las Vegas, è uno degli appuntamenti più importanti al mondo per gli esperti di sicurezza, sia quelli che stanno, potremmo dire, dalla parte delle guardie, sia quelli che stanno dalla parte dei ladri. E giusto per non creare problemi ai partecipanti, parliamo di circa 10.000 persone, a questa conferenza si è completamente anonimi, perché si entra pagando $150 per 4 giorni da versare esclusivamente in contanti all'entrata. Nessuna carta di credito, nessuna registrazione, quindi uno può girare e può appunto essere un hacker buono, quindi un esperto di security, o anche uno cattivo. La novità di quest'anno è che, visti i ripetuti attacchi ad aziende ed istituzioni americane, perché l'annuncio fatto da McAfee è di questa settimana, ma ricorderete quanti annunci abbiamo fatto durante gli ultimi mesi di attacchi che hanno preso di mira aziende, soprattutto americane, ma pensate anche al caso della Sony. Dicevo, visto quello che sta accadendo, sono arrivate nel Nevada, a Las Vegas, anche molte agenzie federali alla ricerca di maghi del computer da assumere per difendere i segreti degli Stati Uniti. La sola Agenzia Nazionale per la Sicurezza ha in programma 1.500 assunzioni entro la fine di settembre e altrettante il prossimo anno, che si aggiungono, pensate, ai 30.000 agenti già in forza, e molti di questi sono esperti informatici pronti per la guerra digitale, di cui si parla molto spesso. Bene, siete all'ascolto di 2024, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi, 2024@radio24.it. Tra poco parliamo di radio digitale, un argomento di cui non parliamo molto spesso. Prima vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono online su www.radio24.it. Cliccando nella sezione podcast entrate nella pagina dove è disponibile il file MP3 della nostra trasmissione, ma utilizzando poi quell'indirizzo potete metterlo all'interno dei programmi che gestiscono i flussi podcast e in quel modo aggiornare settimana dopo settimana automaticamente il file MP3 di 2024. Dicevo, questa puntata è dedicata alla radio digitale. Purtroppo non ci sono molte notizie durante l'anno, molte occasioni per parlare del digitale terrestre radiofonico che esiste, si diffonde lentamente in tutta Europa. Noi partiremo tra poco dalla Germania perché dal 1 agosto esiste una nuova rete nazionale in tecnologia DAB+. Per parlare di questo è con noi in questa puntata Hans Wolter del Club DAB Italia. Benvenuto a 2024. Grazie. Tu sei un uomo di radio perché in Italia lavori appunto, come dicevo, al Club DAB Italia, che è uno dei consorzi italiani che stanno sviluppando la radio digitale nel nostro paese. Ma prima di parlare della radio digitale in Italia, dell'evoluzione, di quello che succederà, speriamo, nei prossimi mesi, anni, partiamo dalla Germania, che dal 1 di agosto ha una network nazionale in tecnologia digitale. Questo che cosa significa poi in concreto? Ma è una rivoluzione. Teniamo conto che in Germania fino ad adesso non esisteva la radio nazionale. Come sapete... Che può sembrare strano. Sembra strano, sì, ma effettivamente la Germania è uno stato federale e ogni regione amministra in modo indipendente le licenze radiofoniche. Quindi esistono radio regionali in Baviera, in Brandenburg, eccetera, ma esistono praticamente, non esistono i programmi commerciali nazionali. Esiste un servizio pubblico a livello nazionale, ma in verità anche questo è separato, ha varie sedi in varie regioni, quindi non è un programma davvero nazionale. Quindi anche trasmissioni diverse sul territorio. Esatto. E questo ovviamente è un'opportunità che il mercato radiofonico tedesco, insomma, deve ancora digerire, perché comunque tutta l'impostazione del sistema radiofonico è sempre stata incentrata proprio sulla regionalità. Quindi è nato, diciamo, l'arrivo di questa nuova tecnologia ha dato l'opportunità di creare un network nazionale. Diciamo anche che la radiofonia, l'FM in modo particolare, è strutturata, organizzata su base regionale, anche perché dopo la guerra era stata la Germania obbligata a non avere un network nazionale. L'arrivo della tecnologia e in modo particolare la radio digitale DAB ha permesso la creazione di questo network nazionale che concretamente trasmette che cosa? Allora, attualmente su questo nuovo multiplex, quando parliamo di radio digitale parliamo sempre di multiplex, ovvero di un gruppo di programmi che vengono trasmessi insieme. Ci sono tre programmi di questo servizio pubblico che è Deutschland Radio e poi una serie di programmi privati. Alcuni sono dei nuovi entranti sul mercato radiofonico, altri esistono già in alcune regioni e sono disponibili in FM oppure in streaming oppure naturalmente entrambi. Addirittura una stazione effettivamente è austriaca e ha lanciato le operazioni anche in Germania come espansione del proprio prodotto. Senti, ma la radio digitale DAB in Germania esisteva già o è una novità assoluta? La radio digitale in DAB esiste in Germania dalla fine degli anni 90. In alcune regioni è molto sviluppata. Se guardiamo il sud della Germania, soprattutto la Baviera e il Baden-Württemberg, diciamo, ci sono molti programmi disponibili. Ci sono più due o tre multiplex per regione già attualmente in servizio. Il nord della Germania invece è sempre stato molto timido per ragioni fondamentalmente politiche. E quindi diciamo che non è stato un fenomeno tedesco. Poi, tra l'altro, il primo lancio della radio digitale insomma, fino agli anni 90 è stato un fiasco in Germania. Infatti attualmente parliamo proprio di un rilancio della radio digitale. Quando venne lanciata alla fine degli anni 90 effettivamente non c'erano ricevitori sul mercato, i pochi che c'erano costavano uno sproposito e comunque non si sentiva effettivamente il bisogno di di una tecnologia nuova per trasmettere o per fornire i servizi alla radio. Senti, adesso in Germania si trovano i ricevitori? che è un argomento di dibattito tra gli esperti. Sì, nel mondo della radio digitale è sempre stato il chicken and egg problem. Arrivato prima la gallina, esatto. E diciamo che se le radio sono effettivamente le uova, diciamo che adesso le uova ci sono. I costi sono scesi in modo molto significativo. Diciamo, una radio normale si può comprare per 50 euro. Esistono poi naturalmente modelli più sofisticati con le docking station per l'iPhone, eccetera, che arrivano anche a 250-300 euro. Però comunque, come dire, l'entry level è basso, l'entry level è accettabile. C'è, diciamo, accettabile, naturalmente sì. Noi vorremmo vedere anche prodotti a 20 euro. Però già 50 euro credo che anche per la qualità dei prodotti disponibili. Sì. È un buon Senti, prezzo. Nelle automobili si trovano, se io acquisto un'automobile in Germania, poi vedremo anche nel resto dell'Europa i progetti anche per il futuro, ma trovo automobili che mi permettono di ascoltare la radio digitale? Se tu vai in Germania adesso puoi comprare praticamente qualsiasi modello dotato con una di radio digitale. Tutte le case automobilistiche tedesche, Volkswagen, Audi, BMW e Mercedes hanno ricevitori DAB Plus disponibili. Non sempre di serie, però comunque possono essere installati. La cosa interessante, qui precedo magari la tua domanda, è che in verità questa disponibilità sul mercato tedesco poi ovviamente influisce su tutto il mercato europeo, perché naturalmente le case automobilistiche non fanno un prodotto per nazione, ma fanno un prodotto per l'Europa. Esatto. Senti, prima di parlare appunto anche dell'Europa, volevo capire se quando parliamo di radio digitale e nello specifico della Germania, succede come per il digitale terrestre, cioè vengono spente le frequenze analogiche o la situazione rimane a quella attuale, cioè continuano ad essere trasmessi i programmi in FM, ma si aggiungono quelli digitali? Allora, al momento in Germania sicuramente non è ancora iniziata la discussione sullo switch off dell'FM e le stazioni che al momento sono su multiplex nazionale non hanno problemi, diciamo, di accesso alle frequenze in FM. Nella bozza della nuova legge sulle comunicazioni in Germania pare ci sia anche un paragrafo su un eventuale switch off dell'FM, però siamo ancora, come dire, in una fase molto interlocutoria, esatto. Preliminare, quindi sì. Senti, in Europa in generale, a parte forse il caso, ma poi chiedo a te, della Gran Bretagna, dove il DAB è stato da anni un discreto successo, ci sono da segnalare altri paesi dove la radio digitale si è affermata oppure no? Beh, diciamo che i paesi in cui la radio digitale ad oggi ha avuto un grande successo sono, come dicevi tu, la Gran Bretagna e poi Norvegia, Danimarca e forse l'esempio più interessante è proprio la Svizzera, dove esistono vari multiplex sia a livello nazionale che locale, è un'ottima copertura. E tra l'altro la Svizzera forse è il paese che ha la maggiore diffusione di ricevitori DAB. Tenendo conto ovviamente che la popolazione è piuttosto ridotta, comunque le vendite sono state a dir poco sorprendenti. 2024. La seconda parte di 2024 in questa versione estiva, durante i mesi di luglio e agosto e anche la prima settimana di settembre, andiamo in onda in versione ridotta, una mezz'ora il sabato e anche la domenica pomeriggio. Vi auguriamo un buon ascolto, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Stiamo parlando della radio digitale. Non l'abbiamo detto prima, o meglio, l'abbiamo detto forse tra le righe, così come quello che abbiamo vissuto con il digitale terrestre televisivo, anche per il digitale terrestre radiofonico. Ricordiamo che la tecnologia si chiama DAB Plus, quella che viene utilizzata oggi, l'evoluzione che viene utilizzata oggi, beh, anche in questo caso servono nuovi ricevitori, quindi per la TV serve il decoder o una TV nuova, che poi del resto ha un decoder integrato. e in questo caso servono nuovi ricevitori, nuove radio o autoradio nelle automobili, ma abbiamo sentito che in questi paesi dove questa tecnologia si sta affermando, Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia, Germania, Svizzera, dicevamo che la Svizzera ha una grande diffusione del DAB, della radio digitale, in questi paesi si trovano le radio. La situazione in Italia è un po' più difficile, diciamo così, perché siamo ancora nella fase sperimentale, tuttavia si trovano ricevitori anche nel nostro paese e si possono ascoltare le trasmissioni. Poi parleremo anche naturalmente dell'Italia. È con noi Hans Wolter del Club DAB Italia. Hans, a proposito di ascolto della radio digitale in questi paesi dove questo servizio si è già affermato, o in Germania si sta per affermare, ma parliamo di, come dicevi, Svizzera, Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia, eccetera, in questi paesi si è veramente affermata o sono ancora di più le persone che ascoltano l'FM? Perché abbiamo detto che per il momento rimangono i canali in FM. Tendenzialmente in Inghilterra al momento si dice che il 25-30% dell'ascolto è digitale, e quando si dice digitale comprende le radio su internet, il DAB e la radio trasmessa all'interno dei multiplex della televisione digitale terrestre. Sì. Altri paesi non hanno figure certe, ma sicuramente l'FM fa ancora la parte da leone. Bisogna dire però, di questi quattro paesi che ho menzionato prima, quasi tutti pensano allo switch off dell'FM, e quindi comunque questo scenario cambierà molto in fretta. Sicuramente la Norvegia a partire dal 2017 spegnerà tutte le reti FM, mantenendo solo forse delle coperture locali per fare dei servizi limitati nei piccoli paesini, diciamo. Ma anche l'Inghilterra sta valutando una transizione al digitale, e i nostri colleghi svizzeri, per ragioni diciamo soprattutto economiche, desiderano quasi un passaggio al digitale, perché i costi di gestione delle reti digitali sono decisamente più bassi. Sì. E quindi infatti tu hai toccato un aspetto interessante, e vorrei parlare brevemente e senza entrare troppo nello specifico della tecnologia, perché possiamo fare un paragone con la TV digitale terrestre, cioè il sistema di trasmissione, quindi anche i benefici economici, cioè il risparmio nell'emissione dei segnali elettromagnetici è sicuramente più vantaggioso. Ma in generale come funziona il sistema DAB? Oggi si chiama DAB Plus perché è una tecnologia che si è evoluta, ma sostanzialmente insomma, possiamo parlare di radio digitale. Come funziona? È corretto il paragone con la TV o no? Il paragone con la TV è giustissimo, perché comunque sono tecnologie che nascono nello stesso periodo, quindi insomma dagli stessi pensieri. Fondamentalmente si tratta di prendere una serie di sorgenti, audio, cioè i programmi normali radiofonici, ma possono anche essere ovviamente altre informazioni, dati, video, eccetera, e accorparli in quello che si chiama multiplex, ovvero un segnale digitale che viene poi trasmesso, che contiene, diciamo, un gruppo di servizi. Un pacchetto, un bouquet. Esatto. Questo bouquet viene decodificato dal ricevitore e io seleziono poi i servizi, i programmi, i contenuti che io voglio fruire. E questi possono essere ovviamente programmi, ma possono essere servizi dati specifici. Anche delle immagini, esatto. Oppure le informazioni sul traffico, eccetera, eccetera. Le notizie, ad esempio, che vengono accompagnate al segnale audio della radio normale. Senti, quali sono i principali vantaggi della radio digitale? Il primo, immagino che si sente meglio. Sì, bisogna guardare bene cos'è la definizione si sente meglio. Che certo. In Italia il sentire meglio vuol dire io sento la mia stazione senza perdere il segnale. E questo sicuramente è il primo plus della radio digitale. Nel senso, io posso partire da Milano in macchina con Radio 24 sintonizzata e portare, viaggiare fino a Venezia o fino a Torino, eccetera, senza mai dover toccare la radio. Perché il servizio viene trasmesso sulla stessa frequenza a livello nazionale e comunque non subisce più le interferenze dei servizi adiacenti. E già questo ovviamente è un benefit incredibile. La qualità audio proprio del segnale di per sé ovviamente può essere modulata in base al tipo di programma. Certo, tutto quello che è digitale non è detto che sia migliore, perché dipende esatto. quanta banda occupiamo. Esatto. Dipende dal famoso bitrate che io uso. Sì. Tra l'altro su questo magari dopo parliamo un attimo su uno dei canali tedeschi che si occupa di calcio, che fa anche uno splitting poi del servizio. Me lo segno, dopo ne parliamo. A questo punto però ti domando, qual è la situazione nazionale? Perché io ho detto all'inizio, lavori al Club DAB Italia, che è uno dei consorzi che sta sviluppando la radio in Italia, il che vuol dire che stiamo mettendo antenne e trasmettitori in giro per il paese per diffondere il segnale della radio digitale. Tutti i network nazionali, se non sbaglio, stanno, dipende poi nel consorzio in cui sono inseriti, ma insomma stanno lavorando a questo progetto. A che punto siamo? Se io compro una radio DAB in Italia, sento qualcosa e sono sicuro di sentirla sempre? Cioè ormai i giochi sono fatti o devono ancora essere fatti? I giochi sono, diciamo, quasi fatti, nel senso noi purtroppo abbiamo iniziato la sperimentazione nel 99 addirittura e diciamo nel corso di questi anni abbiamo sempre cercato di sviluppare un quadro regolamentare che permettesse, come dire, un'evoluzione verso il digitale del settore radiofonico italiano. Bisogna tener conto che il settore radiofonico italiano è veramente particolare. Noi abbiamo 15 radio nazionali, abbiamo i servizi della radio pubblica e abbiamo quasi un migliaio di stazioni locali. E la prerogativa è di garantire un accesso al digitale a tutti i soggetti e quindi diciamo che nel corso di questi anni ci siamo adoperati per sviluppare le risorse per portare tutti anche in digitale. Questo passo è stato fatto, esiste un regolamento per il passaggio al digitale, stiamo attendendo l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze ai vari consorzi nazionali, che sarebbe veramente l'ultimo passo verso l'inizio del servizio regolare. Potrebbe mancare quanto tempo a questo passaggio ultimo? Questo sinceramente non si può dire, non si sa. Non si può dire. Ricordiamo io che sono molto ottimista e vorrei che succedesse entro la fine dell'anno, ma anche l'anno scorso dicevamo così. Esatto. Giusto per mettere i puntini sulle i, questo ultimo passaggio è di competenza del Ministero delle Comunicazioni, del Ministero dello Sviluppo Economico, che si occupa anche delle comunicazioni, giusto? Sì, l'assegnazione delle frequenze viene fatta dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Direzione delle Comunicazioni, naturalmente sotto indicazioni dell'AGCOM, che diciamo dovrebbe presentare un piano di assegnazione. Quindi diciamo che adesso attendiamo questo passaggio e tutte le radio nazionali sono pronte, quindi nel giro di pochi mesi potremmo pensare di avere network nazionali a copertura, con una buona copertura nazionale. E quindi, tornando alla domanda di prima, se io tra qualche mese vado in negozio, compro una radio DAB o addirittura compro un'automobile con il ricevitore DAB, potrò girare il paese con buone coperture? Attualmente ci sono i servizi del Club DAB Italia, naturalmente, di un altro consorzio privato che si chiama EuroDAB Italia, e questi due consorzi, diciamo, rappresentano quasi tutte le radio nazionali. RAI è presente in varie zone d'Italia, quindi comunque, diciamo, c'è una copertura abbastanza decorosa. Naturalmente si tratta sempre di servizi sperimentali, quindi noi non garantiamo, come dire, la continuità del servizio e un'intensità, magari una copertura capillare. Siamo naturalmente prontissimi a estendere queste coperture nel momento in cui otteniamo questi diritti d'uso. Certo. Senti, dicevi prima la radio che trasmette programmi sportivi in Germania, che cosa fa? Questo programma si chiama 9011, cioè 9011. È una stazione che si occupa di dirette di partite di calcio e diciamo durante le giornate normali naturalmente usa il suo canale per fare un servizio in generale di calcio, parlare di calcio, fare dirette in generale. Quando ci sono più partite in contemporanea divide la propria capacità all'interno del multiplex in più parti e, come dire, fa quattro servizi in parallelo, naturalmente a bitrate ridotti. Quindi meno qualità ma più canali. Esatto. Quindi la mia radio dalle 15 del pomeriggio della domenica, invece che una stazione sola, ne può ricevere quattro o cinque, quelle che ci stanno. Insomma. Esatto, poi magari alle 18 torna di nuovo indietro e diventa solo un canale. Interessante, questa è la flessibilità che è permessa dal segnale digitale, insomma, esatto. Quello che succede, quello a cui siamo abituati sui nostri computer. Senti, grazie e buon lavoro, a presto. Grazie Enrico. E quindi speriamo presto di avere notizie per tornare a parlare di digitale terrestre radiofonico, della radio digitale anche in Italia. È tutto per questa puntata, io sono Enrico Paglierini, grazie per la vostra attenzione, ci trovate anche su internet, quindi vi invitiamo ad abbonarvi gratuitamente al servizio podcast di Radio 24 per scaricare settimana dopo settimana la puntata di 2024. Ci trovate anche via mail oppure su Facebook cercando 2024. Torniamo la prossima settimana, un buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 2024. 2024.